Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Noi abbiamo questa, direi, capacità di realizzare un prodotto che io ho definito più che non lusso, il bello ben fatto. Questo bello ben fatto è frutto di una particolare sinergia fra due cose che non necessariamente sempre vanno d'accordo, e cioè la tecnologia e la creatività. La creatività che noi facciamo discendere da quello che abbiamo definito l'effetto rinascimento, cioè il fatto di vivere in un paese che è una sorta di museo a cielo aperto, con tutta una storia culturale che ha radici lontane e profonde. Dall'altro, gli aspetti invece più di tipo tecnologico, dove la ricerca applicata è un bene del quale andiamo fieri, che è legata poi alla completezza delle filiere e al meccanotessile. Ecco, questi due contesti, creativo e tecnologico, permettono poi di realizzare quella produzione di gran qualità che viene esportata. Mario Boselli, presidente della Camera Nazionale della Moda, dà la sua definizione di Made in Italy, un prodotto di alta qualità che nasce dalla fusione di gusto e competenza, di ideazione e creazione. Un unicum dove l'estro e l'inventiva si sposano con la sapienza artigiana e la solida prassi industriale. Un settore, quello della moda Made in Italy, che ha numeri da capogiro. Oltre 60 miliardi di fatturato, con un saldo attivo di circa 16 miliardi. Un circolo virtuoso ed altamente produttivo, utile a dare lustro al nostro paese al di fuori dei suoi confini. Un mondo, quello della moda, che è molto meno frivolo di quello che si pensi. Uomini sapienti hanno saputo costruire, nel corso degli ultimi 50 anni, un impero che ci fa onore all'estero. La settimana della moda di Milano ogni anno attira migliaia di turisti e addetti ai lavori da ogni angolo del globo. Il capoluogo meneghino si trasforma per qualche giorno in un ricettacolo dove la frivolezza degli eventi, delle presentazioni e dei vernissage eternamente bollati come esclusivi si unisce invece alla realtà delle passerelle, dove sfilano i modelli realizzati con sapienza, cura e attenzione a ogni più piccolo dettaglio. Noi a Milano rappresentiamo il vero Made in Italy. Milano è la piazza dove si rappresenta il prêt-à-porter alto, quello della leadership italiana, che è, direi, prima al mondo. Quindi, magari con un po' d'orgoglio, potrei anche dire che Milano è la capitale delle capitali della moda. Se è vero che il presente della moda è milanese, la storia che stiamo per raccontarvi ha un'origine un po' decentrata. È una vicenda nata a Biella, in Piemonte, nell'ormai lontano 1881. Un numero che, come scopriremo, rappresenta molto più di una semplice data di fondazione. Cerruti, è stato Cerruti a praticamente a coniare il termine stilista. Le parole che avete appena sentito sono di Renata Molco, giornalista esperta di moda del Sole 24 Ore. La Molco ha citato un nome che per la moda italiana, così come la conosciamo, ha rappresentato un punto di partenza capitale. Senza il suo apporto, probabilmente non saremmo qui a parlare del Made in Italy, l'uomo che ha contribuito a scrivere quest'importante pagina di storia dell'eccellenza italiana si chiama Nino Cerruti. Nino Cerruti. Un nome nostrano che servirà da trampolino per lanciare una delle carriere più fulgide e inaspettate che l'intero universo della moda ricordi. Nino Cerruti è uno dei grandi della moda che hanno contribuito a rendere prestigioso e altisonante il nome del Made in Italy e più in generale dell'Italia nel mondo. Facciamo un passo indietro e uno di lato e spostiamoci dal quadrilatero meneghino e raggiungiamo il Piemonte ottocentesco, teatro dell'inizio di una meravigliosa avventura imprenditoriale. Biella, 1881. Sulle sponde del torrente Cervo, Antonio Cerruti, insieme ai due fratelli e a un cugino, fonda il lanificio Fratelli Cerruti. Acquista uno stabilimento già esistente e lo rimette in forma per le esigenze della sua neonata impresa. Sui registri comunali biellesi, la famiglia Cerruti compare già da un secolo alla voce «arti et negozi», termine usato all'epoca per riferirsi ai fabbricanti di stoffe. Dalla fine del XVIII secolo al 1881, infatti, le varie generazioni dei Cerruti si sono impegnate ad accrescere la propria fama di tessitori abili ed esperti, accumulando con precisione e costanza un capitale culturale ed economico destinato a diventare insostituibile. La vocazione del lanificio Fratelli Cerruti, infatti, sarà una sola: scegliere con estrema cura i filati per produrre esclusivamente tessuti innovativi e di qualità. Un progetto davvero ambizioso per un piccolo lanificio partito come impresa a conduzione familiare. Ambizioso sì, ma anche lungimirante. La domanda di tessuti particolari e ricercati è in costante crescita. Già ai primi del Novecento lo stabilimento del lanificio Fratelli Cerruti viene ampliato e sono resi funzionanti i macchinari di filatura e tessitura più all'avanguardia. Nei grandi saloni, già illuminati elettricamente, gli operai lavorano instancabili. La produzione annua, che all'inizio del XX secolo è pari a 10.000 pezzi di tessuti fini, continua ad aumentare senza sosta. Una cospicua parte di essa è destinata ai mercati esteri e in particolare all'America. Durante la Prima Guerra Mondiale, l'efficienza degli impianti garantisce una grande produzione di forniture di panno grigio-verde, un colore tristemente familiare se si pensa alle divise dei soldati in trincea. Si pensi che solo nel 1917 i Cerruti fornirono all'esercito ben 170.000 metri di tessuto militare destinato a fabbricare le divise. Un sacco di ragazzi ci sono morti dentro quel panno scuro. Ingrid Sisci, caporedattrice della rivista Interview, ricorda commossa i giovani che vestiti di stoffe Cerruti persero la vita durante la guerra del 15-18. L'azienda, lavorando alacremente durante quegli anni così difficili, mantiene altissimo il suo tenore produttivo. Nel 1945 sono impiegati al lanificio Cerruti circa 700 addetti e sono attivi 140 telai e circa 7.100 fusi per filare. Lasciati alle spalle i due conflitti mondiali, l'azienda torna ad occuparsi di cose più frivole e grazie al boom economico del dopoguerra, il lanificio conosce un nuovo momento di splendore. Il lanificio negli anni 50 consolida il prestigio acquisito in Italia e soprattutto nei mercati esteri, mentre prosegue l'importante opera di modernizzazione degli impianti di filatura, tessitura e tintoria. La tecnologia per i Cerruti continua e continuerà sempre ad avere un ruolo fondamentale. Al vertice dell'azienda, dal 1951, c'è proprio il giovane Nino, subentrato al padre in conseguenza della sua morte prematura. Nino ha solo 20 anni, ma il mestiere ce l'ha nel sangue, come ricorda Ingrid Sisci. Diverse generazioni prima di lui avevano mandato avanti la tradizione del lanificio con coraggio, fiuto e intraprendenza. Quel lavoro Nino ce l'aveva nel DNA, semplicemente. Una spiccata sensibilità estetica e una capacità organizzativa fuori dal comune fanno di Nino l'ottimo imprenditore che alle porte degli anni 60, fiutando l'aria che tira, decide di entrare nel mondo della moda maschile. Non più solo stoffe, ma vestiti, splendidi capi confezionati proprio con quegli stessi filati ormai famosi in tutto il mondo. È così che nasce la Hitman, azienda specializzata nella produzione esclusiva di capi da uomo. Disegnare vestiti, tuttavia, non è per niente facile, nemmeno se intere generazioni hanno passato la vita a produrre stoffe. Quello che manca alla Hitman è un vero e proprio stilista, anche se la parola stilista, a dire il vero, in quegli anni non esiste ancora. Ce ne parla Renata Molco. Cioè non esisteva, no? Un giovane non diceva vorrei fare lo stilista, si facevano i vestiti, si facevano delle cose e poi è successo che la figura dello stilista prendesse quella forma lì. L'apertura della Hitman con sede a Corsico nei pressi di Milano è una specie di rivoluzione non solo estetica, ma anche culturale. Nessuno nel panorama della moda italiana di quegli anni si è ancora immaginato un prêt-à-porter maschile sartoriale. Gli uomini vestono abiti piuttosto rigidi, standardizzati e banali. E l'unica alternativa, per chi se la può permettere, è quella di farsi confezionare vestiti su misura da un sarto. La grande tradizione aziendale che sta alle spalle di Nino Cerruti, unita alla sua intraprendenza, lo spingono in una direzione completamente nuova. Una direzione dalla quale l'intero mondo della moda non tornerà mai più indietro. Nell'Italia degli anni 60 sta per nascere la figura dello stilista. Una rivoluzione che avrà un nome e un cognome che difficilmente si potranno scordare. Buttarsi a capofitto nel mondo del prêt-à-porter per Cerruti è una sfida notevole, una scelta coraggiosa, che sente di voler fare avvalendosi della collaborazione di qualcuno, di un assistente capace, di una persona che condivida la sua stessa visione della moda maschile. Cerruti sente parlare di un giovane abilissimo che si occupa di allestimenti in un prestigioso grande magazzino milanese, il più prestigioso, quello con il nome d'Annunziano, La Rinascente. E così è arrivato per caso, non ho mai pensato di diventare uno stilista di moda, anche perché allora questo nome era particolarmente sconosciuto. Non c'era lo stilista allora. Se prima lo stilista non esisteva, d'ora in poi, in conseguenza dell'incontro fra Nino Cerruti e questo giovane creativo emergente, esisterà e come. La voce che avete appena sentito appartiene infatti a Giorgio Armani. Giorgio Armani. Nino Cerruti conosce Armani tramite un'amica comune e comprende subito il suo valore. La leggenda narra che abbia esclamato: «Gli uomini come Armani sono così rari che quando ne esce uno lo nota anche un cieco». Sta di fatto che i due iniziano immediatamente a collaborare, come ci ricorda ancora la giornalista Renata Molco. L'esperienza di Armani da Cerruti è stata fondamentale per entrambi, nel senso che Armani ha, come dire, apportato una serie di innovazioni alla linea di Cerruti, e per Armani è stato sostanziale perché è stata un'esperienza sul campo fondamentale, perché da lì poteva fare ricerca ed è, possiamo dire che è da lì che inizia la rivoluzione che poi si evolverà fino allo stile di Armani. I prodotti dell'azienda di Nino Cerruti sono di qualità impeccabile grazie alla lunga tradizione familiare di eccellenza nell'uso delle materie prime. Le stoffe e i filati del lanificio Fratelli Cerruti sono ormai celebri in tutto il mondo. Ma qui non si parla più soltanto di materiali, quello che conta è la forma, il disegno, il modo in cui un vestito veste, in cui cade su una figura. Diciamo che lo stile di Cerruti era, immaginiamo che, come dire, con la nascita siamo agli esordi del prêt-à-porter come lo intendiamo noi oggi, e quindi sai, la moda per uomo era molto rigida, molto, insomma, un po' cartonata, no? Un po', quindi per quanto Cerruti facesse dei prodotti assolutamente ottimi, è ovvio che Armani ha cominciato a dare un orientamento più morbido, no? Che poi si sarebbe evoluto fino a diventare la famosa femminilizzazione del vestito maschile di Armani. Però insomma è ovvio che ha dato un'impronta diversa, un'impronta più rivolta anche alla Hitman. Cerruti e la Hitman, grazie all'apporto di Armani, rinnoveranno il proprio concetto di stile e quello di un intero paese, anzi di più, dell'intero mondo della moda. Dopo un training lungo un mese in fabbrica, durante il quale ha modo di osservare da molto vicino l'eccellenza della produzione tecnologica del lanificio, Giorgio Armani inizia a disegnare abiti per Cerruti. Il suo tocco è peculiare ed evidente fin dagli esordi. Giorgio sceglie stoffe via via sempre più leggere, così come impalpabili si fanno ogni volta di più le strutture interne degli abiti. Si assottigliano o addirittura spariscono le spalline, si spostano bottoni e cuciture per imprimere ai vestiti un'aria sciolta, vissuta ma non stazzonata, elegante ma non ingessata. La tavolozza cromatica vira decisamente sui toni freddi, sui grigi e sui blu per ribadire l'eleganza senza urlarla, con fermezza e insieme discrezione. La visione di Armani, unita alla maestria della tradizione di Cerruti, produce un effetto non solo del tutto inaspettato, ma da un punto di vista storico segna un momento di svolta epocale. È stata un'esperienza fondamentale, perché appunto non solo ha potuto sperimentare una serie di cose a livello tecnico e c'era un'industria dietro che lo supportava, ma aveva una grande libertà, perché c'era una stima profonda tra Cerruti e Armani, e quindi è stato veramente l'inizio del suo pensiero sulla moda, no? Quindi è stato sostanziale. Armani si rende conto che la sua esperienza a fianco di Nino Cerruti è un campo di addestramento perfetto per mettere davvero in atto quella rivoluzione di stile che lentamente si profila all'orizzonte. La disparità tra quel che la moda propone e gli effettivi bisogni del mercato è ormai troppo grande. Si allarga sempre di più la forbice tra i nuovi, moderni ruoli dell'uomo e della donna e un modo di vestire ormai stantio, impolverato, buono giusto per i manichini che popolano incessantemente le vetrine. Armani, invece, ha in mente abiti che vestano le persone e sappiano avvolgerle comodamente, ribadendo al contempo l'assoluta centralità del ruolo che ricoprono. Diciamo, nel mondo in cui si vive è importantissimo comunque come ci si veste, perché tramite il vestito si può realizzare il primo approccio col pubblico, col prossimo. Estremamente importante. E se il primo approccio di Armani alla corte di Cerruti è stato vincente, altrettanto lo sarà l'approccio delle collezioni Hitman by Giorgio Armani sul pubblico. I suoi abiti piacciono così tanto che Nino Cerruti in persona, parlando del suo nuovo designer, conia una nuova definizione ad hoc. Armani è il suo stilista, termine del tutto inedito per riferirsi al mestiere di chi disegna vestiti. Grazie alla sinergia Armani-Cerruti, il linguaggio della moda sta per cambiare, anzi, sta già cambiando radicalmente. Destini incrociati. Destini incrociati sta seguendo da vicino la nascita della carriera da stilista di Giorgio Armani, giovane addetto agli allestimenti della Rinascente di Milano. Nino Cerruti, colpito dal suo talento e dalla sua visione, lo sceglie per disegnare la nuova collezione di abiti maschili firmata dall'azienda di famiglia. La linea Hitman by Giorgio Armani riscuote un successo immediato. La fusione tra la sapienza industriale e tecnologica ereditata da Nino Cerruti e l'estro, l'invenzione apportata da Giorgio Armani, risulta senza dubbio vincente. Si tratta di due componenti inscindibili, parola di Armani in persona. Ma direi che chi fa la moda attualmente è un artista legato strettamente a doppio filo all'industria. E pensare che l'idea di fare la moda Armani non l'aveva mai presa in considerazione. Qualcosa non si deve fare? Sì. Assolutamente non aver l'aria di essersi vestiti a fondo, e intendo dire essersi studiati molto bene, essersi coordinati. Bisogna sempre avere un'aria piuttosto casuale. L'eleganza è di casa, in casa Armani. E per eleganza non si intende affatto il lusso o l'opulenza, bensì la compostezza, il rigore, la naturale e innata semplicità. Lo stile per Giorgio scaturisce da un impalpabile miscuglio di noncuranza e attenzione. Una dote complessa e sottile, difficile da apprendere se non la si eredita da qualcuno. In casa Armani, negli anni 30 del Novecento, c'è una famiglia coesa, stabile nei valori, ricca negli affetti, anche se non economicamente. Il padre è una persona presente e felice di passare il proprio tempo con i figli. Valori tradizionali, umiltà, dedizione, forza d'animo e quel pizzico di estro che non guasta. I genitori di Giorgio, infatti, appassionati di teatro, si sono conosciuti sul palcoscenico della Filodrammatica Piacentina, dove entrambi recitano per passione. I coniugi Armani si dividono così tra l'amore per l'arte, tre figli piccoli e una sciagurata guerra che incombe, come ricorda Ingrid Sisci. La sua è stata la classica infanzia d'anteguerra e di guerra, piena di insicurezza in un'Europa segnata dalla paura, dalle bombe, dalle urla della gente che correva per strada per sfuggire ai bombardamenti. Non c'era sicurezza per il domani, non v'era nemmeno la certezza di trovare ancora la propria casa intatta quando si rincasava. E se c'era ancora una casa, poteva non esserci nulla da mangiare. Anche nell'area di Piacenza, dove Giorgio nasce e cresce, i bombardamenti non mancano di mietere vittime. Tempi duri, quelli della Seconda Guerra Mondiale, allietati solo dall'affetto di una famiglia salda e da qualche innocente passatempo. Uno su tutti, il cinema. Giorgio lo ama sin da bambino. Sappiamo che Giorgio Armani ha adorato il cinema fin da giovane, perché i suoi lo portavano molto spesso al cinema, quindi lui è cresciuto... il suo desiderio era quello di diventare regista o attore, in realtà. Se il buio della sala del cinema da una parte rappresenta un momento di evasione dalla triste e spaventosa realtà della guerra, dall'altra diventa un modo per educarsi all'estetica e all'immagine. Non al gusto vagamente paludato, incipriato, fasullo dei palcoscenici teatrali, dove ha visto recitare qualche volta i genitori, ma a quello sobrio, essenziale, aderente al vissuto tipico del cinema neorealista. Dal cinema degli anni della sua gioventù, Armani imparerà a procedere per sottrazione anziché per accumulo, togliendo dagli abiti le strutture superflue e ridisegnandone le linee. E quindi la sua fascinazione per il cinema è sempre stata molto forte e ancora adesso ne vediamo, come dire, i risultati anche nella rappresentazione stessa delle sue sfilate. Ma negli anni del boom del dopoguerra, le sfilate per Armani sono ancora un miraggio. Anzi, ancor meno. Non sono minimamente contemplate. Giorgio pensa tutto tranne che alla moda. Frequenta il liceo scientifico a Milano, città in cui si è trasferito insieme alla famiglia, e una volta terminate le scuole superiori si iscrive alla facoltà di medicina, forse influenzato dall'eroe de La cittadella di Cronin. Ma lo studio dell'anatomia e del funzionamento del corpo umano finisce per deluderlo, o quantomeno non riesce ad appassionarlo abbastanza. Decide dunque di partire per il militare, ma scopre a sue spese che anche la vita in caserma è molto lontana dall'idea romantica che ha in testa. La vita militare non somiglia nemmeno un po' al grande romanzo di formazione e amicizia ritratto negli sceneggiati, tutt'altro. Durante la leva, Giorgio sperimenta quella solitudine grazie alla quale, comunque, ha modo di riflettere. Né il camice, né tantomeno la divisa, fanno per lui. Ero un po' vagante, diciamo, come mentalità. Non ero molto cosciente di me stesso. Avevo intrapreso gli studi di medicina, ma senza molta convinzione. Avevo approfittato del servizio militare per interromperli. E quindi cercavo un po' così, di capire cosa volevo fare nella vita. È stato veramente un puro caso che mi sono occupato di moda. Un puro caso, una coincidenza che ben presto si trasformerà in una delle carriere più fulminanti e fulgide degli ultimi decenni. È ancora Armani a parlarci della genesi poco convenzionale del suo mestiere. Io stavo in licenza di convalescenza, essendomi imboscato durante il servizio militare. Mi trovavo a Milano, disoccupato. Allora, praticamente, tramite una conoscenza, sono entrato alla Rinascente e così, per occuparmi di qualsiasi cosa fosse, così mi si offrisse, mi venne offerto di occuparmi di abbigliamento, insieme a questa cosa delle vetrine, che poi in realtà non è affatto vera. Io non mi occupavo di vetrine, non allestivo le vetrine, ma assistevo gli architetti che si occupavano degli allestimenti. Giorgio abbandona tutte le strade che ha seguito fino a quel momento. Gli studi di medicina e la carriera militare diventano ben presto un ricordo lontano e sbiadito. L'urgenza di essere economicamente indipendente, di non gravare sulle finanze familiari, lo spinge ad accettare il primo posto di lavoro che gli viene offerto. Non è una misteriosa sorta di fuoco sacro a guidarlo verso i territori della moda, ma l'esigenza assai più prosaica di mantenersi da solo. Al reparto pubblicità della Rinascente cercano qualcuno. Giorgio si presenta al colloquio munito di coraggio, intraprendenza e un pizzico di fortuna. Il posto è suo. Gli anni della Rinascente sono fondamentali per affinare quel senso estetico che in Giorgio è innato. Nel corso di 6 anni ricopre ruoli differenti, da assistente fotografo ad allestitore di vetrine, acquisendo una sempre maggiore sensibilità sui gusti della gente, sui cambiamenti e i desideri della società. Arriva, da perfetto autodidatta, a occuparsi da solo dell'abbigliamento maschile. Ed è proprio in questa veste che Nino Cerruti non può fare a meno di notarlo. Cerruti vuole Armani nella sua squadra. Gli offre un posto come designer capo della Hitman, la nuova linea di abiti maschili che sta lanciando per l'azienda di famiglia. È qui che inizia l'avventura di Armani come stilista. C'è da dire questo, se vogliamo fare un discorso più generale della moda, dobbiamo riconoscere ad Armani il talento che tutti conosciamo. La bellezza della sua avventura è che ha inventato un mondo, e questo è, come dire, un grande merito, ma è anche la facilità della cosa, no? Quindi senza nulla togliere, però se pensiamo che allora non esisteva nemmeno il linguaggio di moda, la parola stilista l'ha praticamente coniata Cerruti, ma così quasi per scherzo. Se Cerruti inventa un nuovo termine, Armani inventa un nuovo linguaggio. La moda, a metà degli anni 60, è ancora un territorio vergine, dove un talento puro come quello di Giorgio può scorazzare liberamente. La moda rigida e preconfezionata viene scalzata dalla rivoluzione sobria e sciolta di Armani, e il design degli abiti, a dire il vero, non è la sola vittima di questo rivolgimento epocale. Nell'esperienza di Armani da Cerruti c'è stato anche un episodio sostanziale per la storia della moda. Erano gli anni 70 e le campagne pubblicitarie allora erano molto descrittive, didascaliche dei prodotti. Invece Oliviero Toscani fece una campagna stampa per Hitman by Giorgio Armani in cui non apparivano vestiti, appariva un uomo, mi sembra, con i capelli al vento, insomma, un'immagine di un uomo e uno stato emotivo più che di prodotto. E questo fu una grande svolta non solo per Cerruti, ma per la comunicazione di moda in generale, perché adesso siamo abituati a questo, ma allora era un'innovazione totale. Nuove forme, nuovi abiti, nuove campagne pubblicitarie. Il mondo della moda nella sua interezza è scosso dall'avvento di Armani. Allora, per carità, immaginiamo che sappiamo benissimo tutta l'ammirazione che abbiamo per lui, il talento assoluto. È vero anche che bisogna dire che è una situazione irripetibile, perché era ancora tutto un po' da fare, no? Quindi, come dire, c'era una specie di territorio immenso, no, da scoprire. Destini incrociati. Giorgio Armani, piacentino e lo stilista di moda più famoso del momento. Doveva essere medico, ma a 20 anni preferì allestire vetrine nei grandi magazzini e fece subito carriera. Nel 75 ha iniziato la sua grande avventura. Oggi ha un impero finanziario da 170 miliardi di fatturato all'anno, con 29 linee disegnate da lui e vendute in tutto il mondo. Il giornalista Enzo Biagi, accingendosi qualche anno fa a intervistare Giorgio Armani, lo presentava con queste parole e questi numeri, i numeri di un successo strepitoso. Dopo la felice esperienza alla Hitman di Nino Cerruti, Armani decide infatti di mettersi in proprio. Gli anni con Cerruti, sostanziali per la sua formazione, hanno anche dischiuso un universo di possibilità pressoché infinite. E lui, lo stilista con la S maiuscola, ha tutta l'intenzione di coglierle. È così che il 24 luglio del 1975 nasce la Giorgio Armani S.P.A. I mezzi sono pochi, ma la passione è tantissima. Armani si vede costretto a vendere persino il suo maggiolino Volkswagen per autofinanziare i primi lavori. L'amore per il proprio mestiere, unito a una ferrea determinazione, è tutto quello che occorre per sfondare. Beh, io credo che occorre prima di tutto sapere che cosa si vuole raggiungere, porsi delle mete ed essere molto coscienti di quello che siamo, quello che si è in realtà. Io, ad esempio, si parla di successo di Armani, ma io non ho mai voluto, non ho mai perseguito il successo. Mi è capitato fra capo e collo, trovandomi anche impreparato. Armani è quasi incredulo se ripensa alla notorietà che d'improvviso lo travolge. I suoi abiti diventano nel giro di pochissimo tempo un must. Le sue sfilate un ritrovo di giornalisti e compratori letteralmente sbalorditi. All'interesse per la moda maschile, esclusiva negli anni in rinascente a fianco di Cerruti, si accosta quello per gli abiti femminili. La celeberrima giacca destrutturata di Giorgio Armani non è affatto una prerogativa del sesso forte. La giacca destrutturata, il valore fondamentale di Armani qual è? Al di là poi appunto di aver inventato un mondo, è stato quello di avere femminilizzato il guardaroba maschile e reso autorevole il guardaroba femminile. Una donna che rivendica il suo ruolo sociale e la sua nuova libertà di movimento, a partire dall'abbattimento delle costrizioni di una giacca vecchio stampo. L'ingresso di Giorgio Armani nel panorama della moda femminile segna un punto di svolta imprescindibile, come ricorda Renata Molco. Così come invece per la donna ha fatto esattamente il contrario, no? Mentre immagini tutte le signore che allora si vestivano come dire, in termini un po' da Barbie, no? Con dei colori forti, con i volant, piuttosto che con delle cose molto frivole, lui l'ha mascolinizzata senza togliere la femminilità, no? Perché se guardiamo le immagini delle prime sfilate di Armani, ritroviamo, come dire, tutti questi tailleur pantaloni, questi tailleur anche con le gonne, che sono molto femminili, però hanno quel piccolo dettaglio maschile che rende autorevole la donna che va anche al consiglio di amministrazione, o ricordiamo l'immagine della Belisario, no? È stata una specie di svolta epocale dalla quale nessuno è più tornato indietro. Marisa Belisario, nei primi anni Ottanta, incarna l'immagine di donna in carriera che Armani ha in mente. Manager prima della Olivetti e poi fautrice della rinascita della Italtel, la Belisario è il tipo di donna che non può far altro che trarre beneficio dalla concezione di moda femminile di Armani, sobria e funzionale, senza per questo rinunciare alla femminilità. Gli amministratori delegati, comunque, non sono l'unica categoria di donne che pare interessata agli abiti di Re Giorgio. Poi il rapporto stretto col cinema è stato sostanziale, perché quando Diane Keaton si è presentata agli Oscar spontaneamente con una giacca di Armani, e qui guardiamo la data, scusami, tutto il mondo come dire, ha guardato ad Armani con occhi diversi. Da quel momento si sono un po' aperte le porte di Hollywood fino ad arrivare a oggi, quando naturalmente sappiamo che tutti hanno gli uffici celebrities e si contendono i testimonials a suon di dollari. Diane Keaton, leggendaria partner di Woody Allen in capolavori come Provaci ancora, Sam, o Io e Danny, è quel tipo di bellezza defilata, composta, capace di passare apparentemente inosservata, eppure al tempo stesso in grado di trafiggere lo sguardo e l'immaginazione di chiunque. Con un gesto del tutto spontaneo, la Keaton lancia, forse inconsciamente, Giorgio Armani nel panorama delle stelle hollywoodiane. Richard Gere sarà solo uno dei tanti altri nomi del firmamento del cinema pronti ad affidarsi alle sapienti cure di Re Giorgio. E l'altro valore suo è stato quello di semplificare i colori, no? Di portare questi colori che sono tutti grigi, beige, il famoso grege, tutti i colori di Morandi, quindi, come dire, rendendo più rilassato il panorama, rendendo più metropolitano, più rilassato il panorama, senza per questo cadere, come, non so come dire, nella tristezza o nella banalità, no? Armani ha saputo imprimere un nuovo look alla modernità, darle una nuova forma, un nuovo colore. Si tratta di grandiose svolte, attuate con la naturalezza del frusciare lieve di una stoffa leggera, con la plomba e la compostezza di un uomo che della modestia ha fatto il suo marchio di fabbrica. Direi che la cosa più importante è sapere se si è valido per un certo programma di lavoro o no. Essere molto modesti, molto coscienti di se stessi. E non lo sapeva, ma aspettava un uomo che la scuotesse proprio come un tuono, che la calmasse come un perdono, che la possedesse fosse anche un dono. Era tanto tempo che aspettava l'uomo che la ipnotizzasse solo con il suono.